Garibaldi fu ferito ad una gamba. Gazzettino del Risorgimento, la storia dell'Unità d'Italia. Per Garibaldi, viva! Da marzo a giugno del 1846. Morto dopo 15 anni di regno, Papa Gregorio XVI, i liberali sperano in una svolta. Prezzi degli alimentari alle stelle, famiglie europee sempre più in difficoltà. E in Irlanda la carestia smuove il Parlamento inglese, marcia indietro sul protezionismo. Una buona giornata da Simone Spezia, dalla redazione del Gazzettino del Risorgimento. In apertura subito le notizie sulla morte del Papa. Pare che è morto il Papa, così mi hanno detto in piazza. Oh, Madonna mia! Gregorio XVI è morto e molti non lo rimpiangono. Il pontefice si è sentito male il 28 maggio, una febbre che pareva superabile, ma il 30 la febbre non era calata e una piaga alla gamba si estendeva sempre di più. Il 31 il pontefice ha perso conoscenza, il 1 giugno alle 9.30 è spirato. Va detto che la morte di Gregorio, 81enne e malato, era attesa da tempo e forse da alcuni come una liberazione. Sotto il suo governo la Chiesa ha tenuto il punto sul conservatorismo più duro, condannato il liberalismo anche nella versione cattolica propugnata dall'Amnémont, Lambert e dal padre Lacordaire attraverso il giornale francese L'Avenir, ribadita la sacralità del pieno potere temporale, esaltato il principio di autorità. Quanto all'amministrazione dello Stato Pontificio, le casse sono vuote, i protetti del Papa spadroneggiano, Roma è piena di rovine e di accattoni, di gente che muore di fame. E se nelle Romagne le squadre dei volontari della fede assassinano impunemente presunti liberali sotto la protezione delle autorità, secondo lo stesso consultore della Congregazione dei Vescovi Regolari, Monsignor Corboli Bussi, nelle carceri dello Stato numerosi inquisiti languiscono per mesi, senza conoscere le cause del loro arresto. Gregorio lo vogliono dimenticare in diversi, ma altri temono l'avvento di un papa riformista. In ogni caso il conclave è convocato a breve, il 14 giugno. Il partito dei liberali punta sul cardinale Gizzi, legato di Forlì. I reazionari vogliono il cardinale Luigi Lambruschini. Sì, proprio il segretario di Stato di Gregorio XVI, l'uomo che per odio della modernità ha condannato anche la luce a gas e le ferrovie. Paolo Piacenza, al Gazzettino del Risorgimento, Radio 24. I sovrani di tutta Europa temono per le tensioni sociali che si potrebbero scatenare nei prossimi mesi. I raccolti non promettono nulla di buono per quest'anno, dopo che già il 45 è stato dimagra e i prezzi degli alimentari stanno iniziando a salire. Gli economisti prevedono un picco per l'anno prossimo. Anche il settore industriale ne sta soffrendo, non ci sono dati precisi, ma gli analisti dei vari paesi segnalano che i magazzini si stanno riempiendo di prodotti invenduti. E la grande carestia che ha colpito l'Irlanda sta continuando a provocare vittime dopo l'arrivo di una misteriosa malattia che attacca le piante di patata. È di gennaio la notizia dei primi morti per fame. Tutto questo ha contribuito a smuovere il Parlamento inglese, che da tempo stava studiando se abolire le Corn Laws. La decisione è arrivata il 19 maggio con il voto favorevole anche della Camera dei Lord. Dunque decadono i dazi sulle importazioni alimentari, in particolare di grano, anche sulla scorta di quel che sta succedendo a Dublino. Tutto questo grazie alla svolta del premier britannico, il Tory Robert Peel, e con la netta opposizione di una parte del suo partito guidata da Benjamin Disraeli. Ed è tutto. Sul nostro sito potete scaricare il nostro foglio quotidiano con immagini e notizie. Visitate come sempre il nostro blog, visitate la nostra pagina Facebook, lasciateci un commento là o fatelo prendendo penne e calamaio elettronici. L'indirizzo è gazzettino@radio24.it. Da Simone Spezia, che ha condotto questa edizione, l'ha curata insieme a Paolo Piacenza. Una buona giornata.